viva, viva il buon gusto della mia vezza setta giardiniera, che è il più gradito fior di primavera. Ramiro, Sandrina, allegramente, qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini. Io non voglio veder malinconia oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore. Purtroppo è vero, per una donna infida son ridotto ad ambire. Oh, che sproposito! Affliggersi così per una donna, por la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, datele il vostro cuore. E se amor vi ferì, vi sani amore. Mi guardi il ciel, e appena dalle catene sciolto, cercar voglia nuovi cenni.